qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere di ci siamo 23:08 minuti primi sulle frequenze di Onda Rossa. Abbiamo cominciato 25 o'clock di questa sera. Vi ricordiamo innanzitutto che siamo al 28, ormai quasi 29 di dicembre del 2022. Un anno ce lo siamo messo alle spalle. Noi al solito l'ultimo dell'anno la trascorriamo in quel del di via Maglietti, angolo via Luongo, come sapete tutti. Quindi il 31 dicembre, come ogni anno, sotto Re Bibbia c'è lo spot che va a manetta a rotazione sull'automatico della radio, l'avete sentito tutti. Saremo lì quindi dalla mattinata, dalle 10:30-11 della mattina. Ci tratterremo fino al primo pomeriggio, ci sarà il solito giro intorno alle mura del carcere e del femminile. Soprattutto andremo appunto a urlare quella della nostra vicinanza alle detenute e i detenuti, le detenute in particolare, proprio perché appunto quella zona del carcere di solito andiamo a frequentare. Non so se ci allungheremo quest'anno come si faceva molti anni fa, molto dipende da quanti e quante saremo in piazza. Ci sarà il banchetto della radio, probabilmente ci sarà modo anche di rifocillarsi, diciamo, e insomma questo è il capodanno di Re Bibbia, ve lo ricordiamo come tutti gli anni, perché è un po' lo spirito della radio quello di comunque di fare della battaglia anticarceraria un elemento portante del proprio contributo, diciamo, a questa battaglia. Battaglia che cerca di mettere in luce, cerca di svuotare le carceri, di abolirle, di farne, diciamo, di metterne in evidenza l'inutilità. E questo è un po' quello che cerchiamo di dire da tanti anni. Lo facciamo anche con la Scarceranda, che trovate qui tra l'altro negli studi della radio, e troverete appunto anche dopodomani il 31 sotto Re Bibbia. Insomma, un po' questo è il programma. Poi ci sono tante altre le presentazioni di Scarceranda in giro, insomma tante altre iniziative che la radio perpetua al di là del parlare da questi microfoni, e via via ve ne renderemo conto. www.ondarossa.info il sito, dove troverete tutti i podcast delle puntate delle varie trasmissioni della radio, redazionali, le rassegne stampa, insomma è un sito importante. Troverete il tasto sostieni, c'è una paginetta, si apre, ci sono tutte le modalità per sottoscrivere per la radio. Ve ne ricordiamo una: 6180 4001 è il numero del conto corrente postale da intestare a cooperativa culturale laboratorio eccoci, ci siamo. Dicevamo, Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma, San Lollo, Via dei Volsci 56. Questo è il dove indicare le vostre sottoscrizioni, dove mandare le vostre sottoscrizioni. Quindi il sito l'abbiamo detto, ondarossa@ondarossa.info per il contatto della redazione della radio, dove mandare le vostre comunicazioni. Ancora tutti i social che non andiamo ad elencare, ma che è possibile con questi anche contattare la radio, 0649 1750. Per chi vuole contattarci al telefono, già l'avete trillato. E infine 25 o'clock@ondarossa.info, l'abbiamo dette veramente tutte, è per insultare coloro che stanno trasmettendo stasera sulla mail. Fra poco l'apriamo e così ci potete insultare liberamente. E allora i Sonic Youth che accompagnano la 25esima ora. Era una volta solo l'inizio, non so se adesso anche la fine, non ricordo. Pre under a comunista moon, un comunista ci deve stare. Ah, ok. Comunque in ogni caso. Va bene. E la 25esima ora si è fatta attendere questa sera, ma come spesso accade. Tra l'altro va detto che, insomma, ad onore del vero, tutte le belle parole che ha pronunciato il professore, ma la realtà è che mi ha schiavizzato come al solito. Lui si è chiuso qua a riccio sul suo piatto che non funzionava e mi ha schiaffato a me a freddo, al mixer, microfoni da censire, computer con playlist da fare. Insomma, siamo alle solite, siamo alle solite. Dica. No, è che noi, appunto, diciamo prima, cerchiamo manodopera, bassa manovalanza. Se volete venire a 25 o'clock, insomma, il sottoscritto ormai ha fatto 35 anni di radio, più o meno continuativi, quindi insomma, in età da pensione totale. Te per fortuna ti sei un po', per fortuna tua dico, insomma, io mi sono inabissato a un certo punto, poi di tanto in tanto invece a quota periscopio, ogni intanto spunto a quota periscopica, sì. Vabbè, ma vogliamo raccontare insomma come pensavamo che dovesse andare questa puntata, ma come non andrà. Assolutamente. Intanto le chiacchiere che si facevano prima dall'altra parte, dall'altro studio della radio, che insomma sostanzialmente si rifletteva anche sul che cosa dire a microfoni aperti, no? Ecco, una volta che uno apre il microfono dovrebbe quantomeno garantire la dignità dei contenuti. Ora non basta, diciamo, avere la capacità di sintesi, insomma, di chi sa dire le cose giuste al momento giusto, ma il problema è che per dirle serve tutto il resto, cioè serve un background, serve un'analisi, un contesto, serve una conoscenza generale, esatto. Perlomeno alcune certezze o comunque alcune elaborazioni che... Serve un'esperienza esistenziale, diciamo così, che ti porta a tracciare dei percorsi che poi uno sintetizza in maniera, certo, più o meno opportuna a microfoni aperti, però insomma servirebbero quelli, cosa che in realtà oggi scarseggiano abbondantemente. Quindi tutto sommato sono, ecco, questa è la lingua singolare. Siamo, perché pure sono un po' un ciarlatano, insomma. Sì, vabbè, ecco, comunque questo è un po' lo spirito di 25 o'clock ormai da tanti anni, quella di dire, insomma, di proferire anatemi, ma dire anche tante sciocchezze, perché siamo delle persone forbite e non diciamo termini. Oh, e questa era una doverosa introduzione. Poi, detto questo, bisogna ovviamente salutare il Conte Max. Il Conte Max, assolutamente, che doveva essere qui, ma che è stato colpito dall'influenza stagionale e che quindi niente, ce lo siamo perso per strada e quindi ha saltato il turno con delle birre, diciamo, di buon livello, buone, gustose, quindi peggio per lui, ma insomma gli auguriamo che si rimetta presto e che soprattutto possa ascoltare tanta buona musica. Ora, questa sera sulla scaletta, insomma, se ne potrebbero dire delle belle. Che cosa ascolteremo, almeno per quanto riguarda quella sciagurata selezione che ho fatto io, forse conviene dire che cosa non ascolteremo. Ecco, sicuramente non ascolteremo le ballate della neopsichedelia australiana, statunitense degli anni 80, non ascolteremo atmosfere arcobaleno e ovattate di chitarre ridondanti, perché di tutto questo, insomma, ne abbiamo, almeno io personalmente ne ho le scatole piene, perché ho fatto il pieno, appunto, mi sono saturato abbondantemente, e quindi oggi, tornando a rispolverare un vecchio hard disk, sono passato di nuovo, insomma, per i suoni industriali, quelli più duri, crudi, e mi è partito subito l'embolo, per cui la selezione che doveva essere di 5, 6, 7 brani, alla fine ne sono venuti fuori 30, 40, ma ovviamente non li ascolteremo tutti. Quindi, ma non lo sarà... 06491750 serve pure per darci un, cioè, chiamate, a un certo punto andate a dormire, cioè, insomma, no, esatto. Basta, ecco. Però ecco, non sarà una serata facile, non sarà una scaletta amabile, quindi come dire, distendetevi, rilassatevi, perché sarà dura da allora, qui. Qui abbiamo messo al solito la luce rivolta verso il soffitto, quindi fate anche la giusta illuminazione nella vostra automobile, nella vostra casa, insomma, comunque sia all'ascolto, cuffietto o chi che sia, o quello che è, insomma, preparatevi, perché fra poco si parte, la sigla ormai è al termine, abbiamo detto credo tutto come preambolo, quindi Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 23:18 minuti primi, abbiamo parlato fin troppo. Oh, non ho capito se parto io? Ma come vuoi, ma certamente. Oppure partiamo con gli Stones e poi... dai, Flash. Esatto. Siamo pronti, quindi? Allora, vabbè, allora a questo punto due parole sugli Stones bisogna dirli. 1965, l'album era December Children e tutti gli altri, poi, tutti i mesi, loro dicevano. E, album del 1965, quinto album per gli Stones, rigorosamente registrato in mono e così riportato sul vinile che girerà fra poco se tutto va bene, ma abbastanza senza rete, senza sicura. E niente, la traccia, giustamente vi devo dire che ascoltiamo, che Get Off of My qui è difficile. Get Off of My Cold, ok? Quindi gli Stones. Words and numbers spell out the price to pay. It simply states your disconnect. allora dicevamo, si suona ben presto la carica. Una scaletta all'insegna dell'industrial noise, post grunge, garage, un po' di tutto, anche dei side project. Questo infatti dei primi anni 2000 veniva considerato da molti, insomma, dagli addetti ai lavori, della critica, come un progetto minore del pensate un po', James Keenan. Riconoscerete sicuramente le sonorità, richiamano molto i Tool. Loro sono il Perfect Circle, The Halo. Reluctantly aligned, copying and denying all the favorite pastimes. Ebbene, questi erano i Bad Religion, li avete riconosciuti sicuramente, il sound è inconfondibile. Non era così che dovevano andare le cose, eravamo partiti con l'Industrial e quindi ci torniamo rapidamente con un gruppo che ha fatto, diciamo, della propria insegna la battaglia contro le ingiustizie sociali, soprattutto contro il carcere, contro le guardie, insomma. Fold the Police, stiamo parlando dei Corporate Avenger. I don't fault the police, that the people they run get one shot list. Bene, penso che sia abbastanza chiaro. Sì, quello era un periodo a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000, diciamo, partendo da Public Enemy, diciamo, in cui del rap, dell'hip hop si fece anche un... Beh, qui in realtà un territorio di coscienza politica, no? Di crescita, di comunicare proprio al ghetto quello che potevano essere delle idee di rivolta. E poi passiamo per i Rage Against the Machine, ovviamente tutto il periodo in cui Zack Della Roca, Don Morello e soci, insomma, portarono unendo appunto il metal poi essenzialmente all'hip hop, diedero ulteriore potenza a questo messaggio. Direi che la ricerca musicale dei Rage Against the Machine, ma anche le basi ritmiche sono abbastanza più complesse, se vogliamo. Sì, sì, sì. Così banalizzando. E Rage Against the Machine, peraltro, nasce anche come progetto politico, oltre esatto. che musicale. No, no, ma dicevo, proprio in quest'ambito, e proprio ci stanno anche i Corporate Avenger che nascono successivamente, quindi a quella proposta. Non tanto andando a ricopiare, perché avevano le loro peculiarità, loro erano dei nativi indiani, insomma, d'America. E quindi... parlano molto, infatti, dei soprusi a danno degli indiani d'America da parte dei cristiani. Quindi la loro battaglia, sì, comunque, sì, una battaglia sì. anti-cristianesimo, antireligiosa in genere. Comunque, con uno sguardo abbastanza importante sulle ingiustizie sociali, cosa che accade anche in questa band sì. che ascoltate già in sottofondo. Che si chiama The Birmingham Six, in realtà loro sono una band danese, si rifanno però a dei fatti accaduti a Birmingham, dove effettivamente sei ragazzi vennero accusati di una rapina e, se non sbaglio, anche di aver ferito delle persone, insomma, cosa poi dimostrata non vera. Ecco, loro di questo ne hanno fatto un manifesto. Si chiamano appunto Birmingham Six e il brano, guarda caso, è The Police State. Lo rimandiamo da capo perché, insomma, abbiamo fatto un po' di chiacchiere in sottofondo. Da capo. Welcome to civilization. Vabbè, qua abbiamo un'interfaccia grafica che, ragazzi, è micrometrica proprio, no? Quindi come sposti il cursore? Non è fatta per i presbiti. Nonostante gli occhiali, oltretutto. Adesso veniamo di là e cercheremo di completare l'opera, dai. No justice, no peace. First it was quiet, then it was riot. Yeah. abbastanza di palo in frasca, però ci serviva per creare uno stacchetto e ridare il microfono al professore dall'altra parte, perché sì, ci riporta. Vabbè, vanno a memoria, cercavo la copertina del disco. Vi ricordate una volta quando non c'era internet, per cui ogni informazione che dovevi prendere, anche adesso in radio è facile, no? Vai a cercare qual è l'argomento, qual è l'autore, qual è il testo, i nomi delle band, di chi compone band, li sappiamo tutti a memoria, sembra, invece andiamo a leggere tranquillamente su Wikipedia, perché insomma non è facile, non è facile, diciamo, dopo tanti anni non è facile se non si batte il chiodo continuamente. Ozzy Osbourne è venuto? Eh? È venuto, sì, no, no, cioè, allora abbiamo iniziato con i Stones, con gli Stones, peraltro nel 2023 Keith Richards e Mick Jagger faranno 80 anni, quindi è ufficiale, avranno superato, beh, non so adesso, nel 2018 ancora saltavano e ballavano, è una cosa incredibile, però quello è un fatto, è che appunto hanno fatto il patto col diavolo, questo non tanto è risaputo, ma è la mia opinione, perché altro non può essere per arrivare a quell'età con quel tipo di fisico e di verve, di capacità. Comunque sotto ci sono i Destroyer Monster. Esatto. Quindi dai Stones ai Stones, però in una versione un po' così manipolata, come sanno fare solamente i Melvins, che hanno una produzione infinita. Io insomma l'ho seguiti, ho tante cose loro, ma non è possibile avere tutto, a meno che non si è proprio dei patiti, dei insomma malati dei Melvins. Ultimo, perché almeno è l'ultimo di cui siamo a conoscenza, che di cui abbiamo traccia proprio fisicamente, la seconda traccia del secondo disco, è un lavoro fatto tutto in acustico durante il Covid, fra cui appunto una cover degli Stones del 1971. La cover che è Sway, ovviamente, Melvins. No, è tua, è sul CD. Bene. Did you ever wake up to the fact? Dire che il mondo si è un po' rovesciato, nel senso che di fatto ci siamo presentati quasi con le scalette inverse, nel senso che io avrei potuto fare la scaletta che ha fatto lui e viceversa. E viceversa, invece ci siamo fatti prendere, diciamo, dal pathos nostalgico, quindi gli anni 60, 1965, un disco che è un po' un programma. Ovviamente la traccia più importante che dava il titolo all'LP, come si diceva un tempo, e difatti è un vinile quello che gira, era My Generation. Long play. Era My Generation. Quante volte abbiamo mandato My Generation, quasi fosse un inno. Abbiamo scelto però qualcos'altro da questo lavoro, appunto, del 1965. Questa volta, no, anche questo in mono, anche se già esisteva la stereofonia, insomma, già da anni. Però molti gruppi preferivano ancora incidere con la vecchia tecnica del mono, spesso a 78 giri. Sì, va detta una cosa: abbiamo ascoltato gli Stones, abbiamo ascoltato gli U. Gli Stones partivano proprio da una base blues, loro volevano essere un gruppo blues, poi alla fine hanno fatto anche altro. Però in quegli anni era il blues che approdava, il blues nero degli Stati Uniti, che approdava invece nella Gran Bretagna, e un sacco di gruppi bianchi che facevano blues, e ancora poi avremo modo di approfondire, semmai, con le prossime tracce. Gli U non facevano blues, facevano qualcos'altro, era già quella che potremmo definire la musica selvaggia, che poi una sorta di pre-punk, e c'era un po' tutto, c'era del garage, c'era del blues, c'era del rock and roll, c'erano gli U, ecco, quello che poi sarebbero stati. Tendo a sottolineare che selvaggia l'avrebbe definita anche Corrado Augias, secondo me. Secondo me, no. Io credo che sia i Selvaggi, forse c'era pure qualche band italiana che si chiamava I Selvaggi. Sa di sì. Però era un po' la definizione più giusta per quella generazione, che comunque è assolutamente formidabile, anche riascoltandola oggi, e non lo so. Va bene, il professore, insomma, se non l'avete notato, è in una vena romantica, che quindi io spezzo subito proprio sul nascere e torno a suoni ben, come dire, più brutali e sicuramente molto meno analogici. Anzi, di analogico questi suoni non hanno praticamente nulla. Lo ascolterete. Fantasy di Frontline Assembly. La palestra di chi poi è confluito nei ministri. Bene, Frontline Assembly Epidemic, visto il periodo, ci liberiamo. In questa che potremmo definire una sorta di liturgia elettrolisergica, non so come altro dire. E allora, visto che li abbiamo nominati, Industrial. Industrial, esattamente. Dicevo, visto che li abbiamo nominati, eccoli qua. Stratosferica, direi. Bene, erano ovviamente i Ministry, Fat Pig, il brano che ha dato nome all'album del 1995, se non vado errato. Adesso omaggerei, secondo me, una delle menti più creative e braccia che hanno reso, come dire, omaggio al pensiero di un musicista polistrumentista, secondo me uno dei più in gamba del XX secolo. Si chiama Trent Reznor, ancora suonicchia qua e là. A me personalmente ha emozionato tantissimo, ha fatto delle cose memorabili, altre diciamo abbastanza, come dire, un po' su di giri, un po' fuori dagli schemi, come quando si incazzò con un'etichetta, bruciò il master, si ritirò a casa e cominciò a sperimentare dei suoni a casa sua, che però tirarono fuori un album straordinariamente bello, secondo me, che si chiama Fragile, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio The Fragile. Inutile dire Nine Inch Nails, perché trattasi di un gruppo che si alterna, insomma, con musicisti che vanno avanti e indietro. Ovviamente l'unico che rimane stabile, insomma, è che suona un po' di tutto, corde, fiati, tastiere, è proprio Trent Reznor. Ebbene, dicevamo Trent Reznor, una di quelle persone che almeno a me personalmente fanno pensare con gratitudine al fatto di essere vissuto in questo tempo, un tempo infame, che però ci ha regalato anche personaggi di questo calibro, di questo livello. La stampa insomma narra che il bambino prodigio a Reznor a 6 anni suonasse già perfettamente Mozart, ma insomma queste sono cazzate che lasciamo a chi ha voglia di divertirsi, insomma, a navigare, a surfare per la rete. Anche perché non sento poi molto Mozart nella sua produzione. Esatto, ma ha fatto tanto di diverso, adesso di meglio, non esageriamo. Cioè, due mondi diversi, non comparabili. Due mondi completamente diversi, però una roba ecco da non dimenticare. Quelle cose che quando esci scappando di casa pensando di non essere sicuro di poterci tornare, il disco The Fragile è una delle cose che prenderei. Io, per come lo ricordo, non che sia mai stato un appassionato come te di Trent Reznor, però credo che dal punto di vista delle produzioni, come per i Tools, che li trovo un po' freddi nella loro tecnicità, però appunto nelle loro produzioni sono veramente insuperabili, proprio la capacità di produrre suoni e di aggiungerci il non suono, di produrre anche con non fare rumorismo, ma utilizzare i rumori per produrre invece proprio musica a tutti gli effetti, quindi una capacità uno dei pochi che sì. Utilizza nelle proprie tracce spesso degli accordi dissonanti, sì. Come forse ricordiamo anche nei Sonic Youth, insomma all'epoca si altri, usava, però insomma senz'altro è quello che è capace appunto di rendere assolutamente variegato il suono e non mai banale, cioè non c'è mai un suono che sia una semplice chitarra, un semplice non c'è semplicità, insomma, però alla fine l'effetto è un effetto monumentale. Bene, io direi che insomma potremmo tornare adesso a concederci una pausa analogica. Anche per Quindi tocca a me, dici? Come vuoi, intanto qui c'è la mera, è sempre Trent Reznor. No. Adesso sì, perché poi tra l'altro andiamo a spaziare su un altro di quei personaggi che qui converrai con me, insomma, assolutamente geniali, pure lui ne ha fatti 82 di anni attualmente. E vediamo se ho scelto la cosa giusta. Sì, è la sesta traccia, San Francisco Night. Intanto che la prepari. E di questo disco qui è un disco, ecco, di quelli che quando esistevano i dischi, adesso si ascoltano le playlist su internet, su Spotify, su YouTube, insomma sulle varie piattaforme, quindi alla fine il disco difficilmente si ascolta a meno che non vieni dal disco, cioè non vieni dall'idea che un musicista possa o un gruppo o comunque un collettivo possa confezionare un qualcosa che vada al di sopra della singola traccia. Sembra una banalità dirla, ma non è una banalità del 2020, non lo era affatto alla nostra epoca, ormai possiamo dirlo così, con un po' di vetustà che ci appartiene. E questo è un disco, è a tutti gli effetti un disco completo che va ascoltato dall'inizio alla fine, che chi non ha dovrebbe avere, perché ci stanno qua dentro un po' tante di ammazza, 82 però, 82 anni. Tanto siamo pronti, se vuoi. Eric Burdon and the Animals, San Francisco Night, dal disco che si chiama Wind of Change, The Twain Shall Meet. Io ho il vinile di questo, accidenti, se sapevo me lo sarei fatto portare. Vai. City and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Oh, child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Ci siamo, quindi Eric Burton and the Animals passa, credo che stia ancora correndo sotto la nostra voce, San Francisco Night. Ecco, infatti, che è quello che volevo dire. Cioè, adesso avete sentito la ballata caruccia un po' psichedelica, un po', e qui c'è la follia pura. Questo è, vuol dire fare un disco, vuol dire voleva dire almeno nel 1968, guarda caso, una data abbastanza evocativa, importante. Tra l'altro, Winds of Change è estremamente psichedelica. Sì, come sì. Considerando che gli Animals pure facevano blues, partivano dal blues dei primi anni 60 e poi con Eric Burton, insomma, fecero parecchi salti e andarono a finire in questo, poi in quel turbinio che all'epoca imperava, verso la sperimentazione più pura, ancora oggi, dicevo, assolutamente attuale e significativa. Ho voluto fare un accostamento, ci abbiamo pronto invece sul piatto un vinile, si tratta di Jehovah Kill, un disco pure questo significativo di un altro mattacchione, pure lui c'è una certa, ormai si tratta di uno di quelle persone che questo spazio, di quei musicisti che quello spazio l'hanno attraversato un po' in tutte le epoche, un po' tutte le forme. Lui è sempre un po' uguale a se stesso, cioè era matto da giovane, da ragazzo, lo è rimasto. Bisogna tra l'altro leggere l'autobiografia, sì. Forse si è anche, diciamo, un po' acuita la follia, non è... ma è assolutamente geniale, pure lui nella sua semplicità di ripetersi comunque in una serie di dischi, e anche qui parliamo di dischi, non è possibile, credo, ascoltare Julian Cope, noi lo facciamo in una traccia sola, ma va ascoltato in una dimensione più lunga. Normalmente lui difficile che faccia un disco di 45 minuti, quindi ha fatto tre lati, alle volte fa dei doppi, insomma ha sempre molte cose da dire perché ha tra l'altro una cultura immensa. Spesso fa dei doppi, questo è un triplo, quindi troverete un disco con le due facce, l'altra poi un disco c'ha una faccia incisa e una faccia liscia, e vabbè è così. Bisogna prenderlo così, effettivamente. Fair Love's Displace, questa è la ballata di Julian Kopp da Joaquin, che andiamo ad ascoltare. 1987, se non vado errato, poi adesso c'ho, sì, 87, sono riuscito a leggerlo, quindi Joaquin, Julian Kopp, vado. Man struck a woman again, and a veil descended from above. The reasons they cried out, but it was no time for crying. It was the shaking of the world. Determination, I walk those miles, pitiful, microscopic nobody. Woman, even the night is keeping me alive. One is gone and one is back. The little sister cries and the babe lies on the doorstep, along with something that you lack. The knives inside me. siamo di nuovo su un'onda più cupa. Ma straordinariamente bassa e profonda. Ebbene, questi erano i Gravity Kills Here, originari del Missouri, come faceva notare il professore. Non è che abbiano fatto chissà quali 3-5 anni più o meno, 5, quali grandi anni, cose, sì. Però ecco, questo è in cuffia? Sì, adesso sì. Vai. No, c'è qualcosa. Sì, vai, vai. Che non va sul microfono, va e viene. Vai e viene. Cursore sporco, forse. Sì. Dicevo, con questo basso, se avete una cassa un buono, a carico simmetrico, sì, potreste far camminare i piatti dentro la vostra credenza molto, sì, ma molto tranquillamente. Esatto. Ecco. Esatto. Ci ricorda un po' le colonne sonore di molti film di quegli anni, che più o meno utilizzavano un po' queste basi, no? Non voglio dire Matrix, o comunque intorno a Matrix, tutta quella Matrix è del 99 il primo, mi sembra, quindi quell'epoca lì, un po' tutta quella la fantascienza, banda lì, sì. Si serviva di questo tipo di suoni per descrivere pure appunto la goticità, poi il goticismo, come si dice, l'essere gotico, l'essere tipo gotico di fantascienza. Bene, adesso forse qualche eco gotica ce l'ha anche lei, però insomma ha tante altre cose. Oltre a delle chitarre straordinariamente belle, importanti, calde, estremamente sonore, Lei è un personaggio estremamente eclettico, immagino che tu abbia capito di chi parliamo. L'ascoltavamo prima? No. Allora. Non proprio. Ah, vabbè, era l'altra. Era l'altra, esattamente. L'altra, perché viene invece inizia da... con la P. Polly. Ah, vabbè, ma noi pure avevamo portato, quindi ah, qui sì. Ci siamo sovrapposti. Attenzione, sì, quindi ma il disco che hai portato è questo. Ci sono dei punti di contatto. Non è questo. Rub Till It Bleeds. No, non è quello. Non è quello. Questo è uno dei brani che io personalmente amo di più. Vediamo se questo amore è corrisposto anche da te. Ma assolutamente quasi tutta la, cioè no, quasi tutta, senza il quasi, tutta la produzione. Quindi dai, tranquillo, hai vinto. Dovrei alzare il cursore. Accidenti. Siamo andati a cogliere il meglio del meglio. Questo era uno di quei brani che andava spesso, tra l'altro, negli speciali Babbo Nasali, perché è di quelli che sale piano piano. Che sembra, capito? Che sembra che te voglio bene, esatto. E invece poi dopo. Allora a sto punto io direi, poi lo rimandi da capo, siamo sì. In grado. Io direi di preparare sul piatto la mia proposta, così se le giochiamo tutte e via. Vabbè. Vediamo così, vai. Quindi... Lasciamo questo? No, la mandi da capo. La mando è questa, da capo. È okay, certo, va sentita non si può esatto. Va bene, lo facciamo. Cioè, ci proviamo, vediamo che succede. Oh. Thank you. Allora, io non so. È lo stesso. Ascoltandolo dalle casse acustiche, che effetto possa fare, ma vi assicuro che ascoltandolo in cuffia, qui si gioca una partita strana. Cioè, questo è un brano che inizialmente porta a sederti, diciamo, tu proprio ti metti seduto, ma con una certa attenzione, perché la melodia è comunque carica, lenta ma carica di inquietudine. Dopodiché la base ritmica che sale e alla fine la voce, la chitarra dirompenti ti fanno proprio inevitabilmente scattare proprio in piedi e come dire, l'istinto è quello di staccare le finestre dagli infissi, non so, tirare giù le porte dalle cerniere, rovesciare i tavoli, ecco, è questo un po' l'effetto che fa in cuffia. Allora, quello che io volevo dire di questo disco, a coronamento di quanto te descrivevi, è che è un disco dove ci stanno scritti i nomi delle tracce nella copertina che ci abbiamo, come si chiama? Nella nemmeno la controcopertina, la fodera del disco. La fodera, sì. La foderina. Ci stanno le tracce senza numero indicate, lato A, lato B. Poi normalmente ci stanno gli autori, cioè i musicisti indicati, credo, nella maggior parte. Invece qui c'è un signore che è un pochino arrogante, ma che effettivamente aggiunge dove c'ha un signore che c'ha la bacchetta magica. È un signore antipaticissimo che noi abbiamo, praticamente c'è in ogni puntata di 25 O'Clock, forse c'era anche sotto mentite spoglie di Next Time, un signore di Chicago che si chiama Steve Albini e che praticamente prima ancora di mettere, lui ci tiene che venga scritto sul disco Recorded by Steve Albini e poi dopo ci stanno un po' tutti loro, perché poi vinyl cutting by Bob Weston da Chicago Mastering Service e ancora poi Mastering Consulting Steve Albini. Devi avvicinarti al microfono? Sì, sì. Questo per dire che la musica ce la mettono loro, l'impeto, ma chi è in grado di esprimere quello che hai detto te è purtroppo. Dico purtroppo perché è veramente antipatico, però lo ascoltiamo sempre perché è uno di quei personaggi che per quanto un po' sta qui la sua antipatia, perché lui fa finta di volere rimanere oscuro e dietro le grandi produzioni e invece poi vuole che il suo nome sia ben peraltro messo in mostra. Il titolo del brano direi abbastanza rabbioso, perché Raptili Blitz significa sfrega fino a farlo sanguinare, che potrebbe avere, diciamo, tantissime interpretazioni e accezioni. Potremmo pensare, diciamo, benevolmente a una bolla di zanzara, va, mettiamola, sì, così. Sempre dallo stesso disco, quindi lo vogliamo ascoltare. Yuri G, che dall'altro lato però del disco. Bene. Yuri G, che sarebbe poi Yuri Gagarin, lei lo dice nella traccia, insomma è sempre qualcosa di molto velato, di molto sofferto, cioè è qualcosa di molto sofferto, la impossibilità di vedere le stelle in maniera tranquilla, in maniera Lei è sempre stato un personaggio, sì, abbastanza tormentato, sì. E dice proprio: vorrei essere Yuri G, senza dire Yuri Gagarin, vorrei essere Yuri G, almeno starei lassù nella quiete e potrei osservare il cielo, le stelle dall'alto, insomma, in questa tranquillità siderale. Io credo che non le mancassero, diciamo, sostanze per vederle anche con i piedi a terra, insomma, le stelle. Beh, comunque è un bel personaggio, Wally J. Harvey. Se vi interessa, leggete su di lei, un po' su come la pensa, ci stanno delle interviste carine. Sicuramente un personaggio fuori dall'ordinario, ecco. Nessuno schema. Quindi andiamo con Yuri G. Ed è il piatto 1, suppongo? È sempre 1 e 2, okay. Tutti e due. Vai. Via. Hey! Vabbè, lo interrompiamo. Sì, tracce, insomma, poi avremo modo di ascoltare anche da altri. Non esageriamo. Peraltro, sempre il cursore sporco. Qua dicevo, peraltro, rimaniamo su sonorità e voci femminili. Abbiamo detto prima Elettrodo, che avremmo avuto dei punti di contatto anche con la sua scaletta. Infatti, qui siamo ad omaggiare Diamandona Galassa anche noi della 25esima ora, però lo facciamo, diciamo, con atmosfere un po' più umane, mettiamole così, no? Non quelle così spinte che manda Elettrodo, passando peraltro da un approccio estremamente istintivo a invece l'approccio di Diamanda Galas, che è estremamente da ricercatrice del suono, dell'utilizzo della voce come una specie di sintetizzatore, un po' come anche qua, insomma, il mainstream della stampa paragona, no, questi esercizi vocali, sperimentazione vocale, a ovviamente Demetrio Stratos, come dire, gioiello nostrano, insomma. E in questa versione lei suona con John Paul Jones, un disco probabilmente tra i più commerciali, insomma, che ha fatto Diamanda Galas, però un bel brano. Do You Take This Man? Sì. Lo prendi? Te lo prendi? Vai, vai. treasure for them, for which you are poor, in sickness and health, should death do us part, according to God's holy ordinance, and therefore I pledge thee my trust. I'm very disappointed in you. I told you not to run off from me, baby. There's nowhere else for you to go. There's no one else you need. E lei era Diamanda Galas in una collaborazione con John Paul Jones nel 1994. Do You Take This Man? Sicuramente era incazzata con qualcuno. Lo dice proprio, I'm very disappointed in you. Personaggio sicuramente molto molto particolare, e che insomma ascoltarlo in un brano, in una scaletta fugace come questa, è soltanto polvere negli occhi. Questo è un personaggio che va studiato a fondo. Lei ha iniziato a suonare all'interno dei manicomi, quindi diciamo che a volte la sua voce sembra posseduta, quindi insomma un personaggio davvero molto molto particolare. L'anno dopo Almighty Branch, Lo ricorderai che tu belli qua negli studi di Onda Rossa. Stiamo parlando ovviamente, vabbè, quando partono questi ritmi, proprio questa base ritmica, questo zompettare, questi salti che io penso che sarebbero stati tranquillamente degli acrobati o dei campioni di salto in alto, insomma. Erano fondamentalmente tre, anche quattro, ma insomma erano tre abbastanza incazzati, direi. Sì, addirittura cinque a un certo punto sono diventati. Comunque appunto c'è un motivo per cui facevano sti suoni scoppiettanti, saltellanti, però perché c'era una coreografia alla fine, secondo me. Forse dovuto al fatto che erano tutti vegetariani, stringage. Che succede? Io sto avvolgendo il nastro, eh. Sì, sì. Ah, fenomenale, grande, grande, grande. Quindi Fugazi, Margin Walker. E loro erano i Fugazi, Margin Walker, era il 1990, dopo questa spolverata garage. Peraltro i Fugazi, non abbiamo detto, anzi l'abbiamo accennato, sì. Ma noi ospitammo, quando era? 10 anni fa circa? Forse qualcosina di più pure, sai? Pur più di 10 anni fa? Più di 10 anni fa, perché... Come l'abbiamo beccato Giolelli noi? No, stava a Roma. Lui è vissuto a Roma per una decina d'anni, forse più. Forse la compagna era era di Roma, insomma. No, lei è una compagna del Forte, insomma, che grazie al Forte fotografa. Peraltro facendo una figura letteralmente di merda, perché non avevamo un traduttore. Io pensavo, vabbè, insomma, erano decenni che parlavo inglese, dico, mi butto io in questa esperienza, ma assolutamente ignaro del fatto che per fare la traduzione simultanea serve un cervello che va a una velocità estremamente maggiore a quella a cui sei abituato. E infatti poi insomma abbiamo risolto, mi ricordo forse la compagna stessa ci ha aiutato, vabbè, comunque insomma se volete c'è quell'intervista, basta, basta andare sul sito della radio e andare a scrivere Giollelli 25 o'clock, adesso non so qual è la cosa, e c'è un po' la, ci racconterà un po' la storia di quegli anni del do it yourself, un po' spento in quella circostanza, io me lo ricordo, ma, non so. No, ma loro, sai, un po' questa, un po' la chiave di lettura. Più si fa, più si suona potenti e più si è tranquilli nella vita. È proprio un dato, una legge matematica. Mi sembra un ottimo. Possiamo dire, sì, sì. Io ho incontrato le persone che facevano i generi più impegnativi, spinti e sono le persone più prosaiche proprio calme e pagate del mondo, non le scuote nulla. Allora, se sei d'accordo a questo punto della 25esima ora, io tornerei rapidamente da dove eravamo partiti, cioè vogliamo dire però prima ancora di ritornare, cioè proprio perché stiamo ripartendo, ripartiamo proprio da capo e ricordiamo che siate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, che è l'una, quando ci si diverte il tempo passa, che Odio il Carcere è la società che ne ha bisogno, presidio intorno alle mura del carcere di Re Bibbia, quando ovviamente il 31 dicembre 2022 alle ore 10 l'appuntamento ufficiale è l'angolo fra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti, banchetto con la nuova agenda scarceranda diretta dagli 87.9 NFM di Radio Onda Rossa, e insomma vi diamo appuntamento. Le lenticchie, ci sono anche lenticchie. Ma guarda, le lenticchie queste non sono state citate, io non ho messo becco. Ma io ho sentito nello spot, però forse le ho sognate. Nello spot è l'altra. Io diciamo do per scontato che ci siano, perché è una sorta di così di tradizione che si rinnova. Ma no, tradizione lasciamo perdere, tradizioni di punto saldo dell'esistenza nella nostra vita. Se non c'è la lenticchia, noi ci metteremo a battere forte forte i piedi per terra, insomma, perché a fare i capricci. Per tutto l'anno, tra l'altro. Però per avere le lenticchie occorre qualcuno che le prepara. E insomma, ci auguriamo che qualcuno si prodighi. Qualcuno o qualcuna abbia avuto il tempo di. Sì, quindi dai, ci diamo appuntamento oggi sarebbe 29, a dopodomani. Va bene, io dicevo quindi, se sei d'accordo, nella chiusura della serata tornerei un momento, ma proprio un paio di brani veloci, a rispolverare le sonorità da cui siamo partiti, e cioè suoni sintetizzati, diciamo abbastanza industriali. Poi però farei, come dire, un omaggio staccando completamente proprio da Paolo in Frasca e riassaporando alcune note, non le lenticchie, ma alcune note nordirlandesi. Beh, è un omaggio, ma guarda, io tra l'altro un omaggio che non diciamo possiamo... è così una cosa che non si dovrebbe svelare in onda, anche perché poi, però io ormai le svelo, perché tanto se non le faccio non è che, cioè, sono talmente do talmente delle sole a ascoltatori e ascoltatrici, e a chi mi conosce sa che sono una sola. Bene. Però io di invitare qualcuno e qualcuna della vecchia Ketamon. Vabbè, però allora hai già svelato, cioè io non lo so, non si può nascondere niente. Vabbè. Hai visto la scaletta, di la verità? No, non l'ho vista. Dai, però insomma, dato che bastardo. I trascorsi comuni, insomma, è facile gioco arrivare a pigiarvi contemporaneamente sullo stesso disco, e quindi. Va bene. Vai! Allora. Un omaggio ai Fratelli Chimici. Back with another one of those block rocking beats. those block rocking beats. Ipnotici, The Chemical Brothers. Allora, adesso un gruppo sicuramente poco celebrato. Tra l'altro sono svizzeri e quindi ben lontani dalle scene che hanno guidato queste sonorità, però hanno ricevuto i favori della critica, i complimenti da parte di svariati gruppi tipo Ministry, Trent Reznor stesso. Si tratta di Young Gods. Ripeto, sono svizzeri, loro sono due, non hanno assolutamente alcun suono che non sia sintetizzato. Tra l'altro le chitarre che ascoltate quando ogni tanto compaiono non sono chitarre ma sono sintetizzatori. Kissing the Sun. Somewhere will they end the line? Ebbene, qua invece è partito un bombardamento, loro sono in crunch. A questo punto io direi che bisogna cominciare a ritirarsi, è giunta l'ora. Cominciamo a mettere a posto le cose. Non abbiamo mandato Mark Lanegan, l'avevamo così, ci eravamo promesso fra noi, ma lo faremo. Avremmo presto. Dovuto citare. No, non c'entra nulla. Primus, Chius, i Korn che stanno andando in sottofondo, chissà quanta roba. No, ma non c'era. Non, anche perché uno deve un po' seguire quella che è la vena emotiva, no? Quindi siamo andati su queste sonorità. Magari se ci butteremo sulle ballads. Ti chiedo se c'è la possibilità di mandare una ballads di uno di quei personaggi che non c'entra niente con l'industrial. Io pensavo al Nord Irlanda. Sì, sì, allora facciamo 50-50. Mm-hmm. Magari vado io e poi andiamo col Nord Irlanda. Vai. Che è più ballads per finale, o il contrario. E vabbè. Anche perché ci interessava fare un po' la descrizione, no, del disco, te lo faccio vedere. Diciamo, questa qui la copertina l'ha fatta lui a casa sua. E il disco gliel'hanno stampato e poi lui ci ha ripassato sopra uno spatolato veneziano, il veneziano l'ha intonacato così. Straordinario. È una roba lì. Il disco intonacato, perfetto. Sì, chissà se suonerà. Non ricordiamo la traccia che avevamo deciso, dunque non c'entra nulla con l'industrial, perché qui andiamo sulle grandi ballads psichedeliche, forse fra i maggiori esponenti della ballads psichedelica, insomma l'hanno quasi inventata loro o lui, perché poi di questo stiamo parlando. Andiamo a raccattare la traccia che avevamo selezionato. Che la troviamo qui, che è la, ma più che altro, più che la traccia, non mi ricordo qual era il lato del disco da mettere. Disco traccia 2, disco 1. I Meet the Stones, io incontro le pietre. Ovviamente, cioè, stiamo parlando di Joseph Mascis, che è l'autore appunto dell'intonacatura del disco, un po' personaggio che ha portato avanti l'idea di Dinosaur Junior per tutto il tempo necessario a loro, penso siano degli inizi degli anni 80 fino ai giorni di oggi. Questo è un disco del 2021 e ci stanno tutti, sono ritornati i tre Dinosaur Junior dei primordi, quindi con Lou Barlow al basso e Marf alla batteria. Dicevamo, non c'entrano nulla con l'industrial, però loro hanno una caratteristica che poi ci diceva il fantasma, che è riuscito più volte a vederli dal vivo, a sentirli, a vederli dal vivo, cioè è in assoluto il concerto con gli amplificatori. Loro usano, cioè non tengono una manopola che sia sotto il massimo, è tutto al massimo. Quindi la distorsione quando i Marshall bruciano, diciamo. Sì, loro al limite proprio della fulminazione. No, la distorsione non è dovuta al fatto di qualche effetto particolare, qualche distorsore, è proprio al fatto che strippano gli amplificatori, sì. E quindi, malgrado sia l'una e 18, vi chiediamo di mettere a palla il vostro mettere una cuffia, come poi verrete arrestati. Ma questo non importa a noi, insomma, però anche per dare un senso, no, poi alla rivoluzione, alla rivolta che bisogna fare in questa società. Quindi bruciamoci tutto adesso, mettete, bruciate anche il vostro amplificatore, ascoltiamoci una ballads psichedelica dei Dinosaur Junior. Mi devi dare il tempo però di farlo. Certo, intanto abbiamo un sottofondo. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning.

I gave it everything I got. I tried to stop you, I could not. I'm here to tell you that's a lie. I got excited, I got depressed. The situation and then the rest. Feel out the others, test extreme. I came prepared to keep it mean. I press the button on the scene. I got to help you find the sound. I held a piece off ground and down. Thought that it meant you'd come around. Io direi di accantonare il disco Lilla che gira. Va bene, e la prossima assolutamente in silenzio. senza alcuna presentazione, va così. Sì, e poi chiudiamo. Va bene, erano ovviamente i Whiskey Trail. Non, come dire, non, quasi non è possibile evitare le lacrime ascoltando questo brano, perché questo è un ricordo che ci lasciò Ciancica il giorno dopo della nostra ultima trasmissione, che avvenne esattamente il fine settimana dopo il 15 febbraio del 2002. Ovviamente era in ricordo di Roberto Massi, l'amore nostro, il nano malefico, e lui era un caciarone, e vi assicuro che ogni volta che entravamo in sala per trasmettere la nostra Next Time, e prima ci precedeva ovviamente Kedamon con questa sigla devastante per la sua bellezza, perché è una bellezza che veramente devasta il cuore, secondo me, nel ricordo di chi ha sputato sangue, di chi è morto, insomma, nelle lotte e nelle fiamme, nei fuochi del Nord Irlanda, di Derry, di Belfast e di tanti altri centri. Insomma, lui era un caciarone, ebbene, ogni volta che partiva questo brano piombava in un silenzio di un rispetto quasi assolutamente, come dire, fuori dalla sua portata, ecco. Non era una persona che stava facilmente in silenzio, chi lo ha conosciuto lo sa bene, ma non stava in silenzio non solo con la bocca ma anche col corpo. In genere era uno che si agitava parecchio e parlava parecchio, ecco. Quando partiva questo brano dei Whiskey Trail, lui piombava in un silenzio rispettoso, degno, come dire, di altre dimensioni, di altri luoghi. Invece è partita la sigla, noi la rimanderemo da capo perché non siamo soliti parlarci sopra. Non so se, vabbè, mo per ora facciamo, mettila in loop così poi dopo alla fine la lasciamo. E no, vabbè, allora basta, abbiamo concluso questo, l'abbiamo chiamato speciale Babbo Nasale. In realtà il Babbo Nasale vero, autentico, si fa il 25 dicembre. Qualcuno viene sempre in radio comunque a celebrare la ricorrenza natalizia blasfema di Radio Onda Rossa. E noi invece vi abbiamo ricordato l'appuntamento del 31, e ve lo ripetiamo brevemente: il 31 sotto le Bibbie, a tutte e tutte, dalle ore 10 fino al primo pomeriggio, per stare tutti insieme sotto il carcere, per portare il nostro abbraccio alle detenute e ai detenuti. Le programmazioni in diretta della radio proseguiranno da stamattina ormai, a partire dalle 8, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, cittadina, in redazione della mattina del giovedì, e poi via via le trasmissioni che andiamo a ricordare più o meno a memoria, e cioè tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, poi Attica Blues, poi La Schiena del Sol, poi Tabula Rasa, che è la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e per finire Apostasia, i cuginetti di Apostasia, che chiudono la notte del giovedì. Credo che domani più o meno il palinsesto sarà pieno, perché insomma siamo comunque per molti e molte di voi in periodo così di feste, chiamiamo così. Il nostro saluto più importante, ma appunto lo ribadiremo dopodomani, è quello a tutti i detenuti e le detenute, a tutti coloro che vivono in condizioni di limitata libertà personale, carcere, la dinanza, clandestinità, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti, i decreti amministrativi che ci costringono e vi costringono non potersi spostare liberamente, e tanti altri dispositivi di sorveglianza e di punizione, di controllo, che devo dire, malgrado noi non veniamo da un'epoca che era così tanto tranquilla, nel senso che esisteva un controllo capillare e grottesco e anche fastidioso sulle vite di noi ragazzi e ragazze, dico, se possibile è ancora peggiorata la situazione, grazie pure ai tanti mezzi, le tante macchine, le tanti dispositivi di intelligenza artificiale che controllano le nostre esistenze. Noi non ci sentiamo mercoledì prossimo, ma il mercoledì forse 21, non abbiamo fatto bene i conti, non abbiamo guardato bene il calendario, quando potrà ritrasmettere 25 o'clock, andiamo un po' a poi in questo periodo, però quando andiamo lo facciamo e cerchiamo sempre di farlo nella maniera migliore e soprattutto con qualcuno che ci dia una mano. Bella a tutti e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo da capo sotto la luna comunista, e magari concludi anche te. Sì, sì, io concludo non aggiungendo molto altro, se non la citazione di un monologo, insomma, di un film abbastanza famoso in cui un agente, ovviamente non umano, un extraterrestre, che ci ricordava che nonostante pensiamo di avere il controllo su tutti e tutte attraverso i loro sofisticatissimi dispositivi, in fondo la razza umana assomiglia sempre e comunque molto a quella di un virus, cioè si concentra nei posti, sfrutta il più possibile le risorse che questi luoghi mettono a disposizione, e quando ha lasciato terra bruciata si sposta da un'altra parte in cerca di nuove risorse da sfruttare. Quindi il controllo in fondo è una pia illusione per chi ci vuole credere, per chi invece si adopera per eluderlo, allora costui ha il nostro omaggio, ovviamente. Non c'è più niente che vai, no, sotto fondo. Rimanda la sigla. Rimanda la sigla? Sì, Under stati? Comunista Moon. Ah. Pensate che m'ero anche perso questo particolare, che questa fosse diventata la sigla di chiusura. E allora buonanotte a tutti e a tutte voi. A risentirci chissà quando, ma forse non poi così lontano, perché insomma il 15 febbraio è qui dietro. Un saluto al Conte, chissà se ancora l'ascolto, ma sicuramente si sarà addormentato, a tutti quelli che hanno avuto la pazienza e l'ardore di seguirci fin qui, ai familiari di Roberto, quelli che sono rimasti ovviamente, e un bacio all'amore nostro. Sister, I'm counting the minutes until you're here with me, yeah. And boy- Let it begin tonight, we'll win. Let it begin tonight, we'll win. Dreams.